Beh. Hola, hola, hola. C'è qualcuno? Mi ascolti, sì? Beh, ho capito. Quindi fate. Vi fate i vostri qui a un certo punto, non c'è problema. Vabbè, io me li faccio per i fatti miei adesso. Dopodiché, qual è il problema? Vabbè. Ma noi facciamo le prove sul canale 10. Così, almeno siamo a posto, tanto che... a un certo punto... Quindi... Vabbè... D'accordo, ok.